Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese. Non dimentichiamo le convenienze di un ricco salotto di Napoli davanti a forestieri. Furono serviti squisiti rinfreschi, furono scambiati complimenti, notizie, informazioni artistiche, commerciali, mondane, sebbene queste ultime appena accennate, per semplice educazione. Si parlò di paesi, di viaggi, di teatri, di alti personaggi o di curiosi e modesti. Don Mariano nominò due volte tra i suoi numerosi conoscenti di Napoli un certo Pennarulo, che doveva essere appunto tra questi ultimi e che però giudicò uomo buono. Si parlò quindi di principi e di politica, ed Elmina, frattanto, si serbava sempre sorridente e muta, parola che tornò in modo ossessivo alla memoria di Dupré come la fondamentale informazione del suo amico mercante. Muta di dentro, come non fosse una giovane donna tanto avvenente e dolce, ma una pietra. E da questa immagine perfino banale, che ricorre tanto spesso nei romanzi a proposito di donne dal comportamento riservato, fu tutt'uno per quell'uomo, esperto di statue e rovine, richiamarsi con la mente ai sacri luoghi dell'antichità, a quei prodigi di tristezza intravisti nei racconti di viaggiatori che tornavano dall'Egitto o la Grecia o l'Asia Minore. Le buie rampe di pietra tese verso un cielo senza nubi, o quelle tavole di pietra spaventosamente alte, simili a larghi coltelli di giganti immersi nel cielo di cobalto, quasi a fenderlo, e insieme radicate nelle profondità della terra, anzi nell'oro del deserto, come a cercarvi scampo o rovina. Nel fondo di quei monumenti, immortali per silenzio e segreto, spirali di tenebre, avanzano cunicoli cripte poco illuminati, sfilano e si alzano mummie dorate di regine, di sacerdoti, di re, e sono custoditi alti e struggenti misteri. E pensò ancora, perché egli per tutti era adesso lo stesso Pegaso, adesso Bellerofonte l'ardito, pensò che lei, Elmina, era il mostro triforme da vincere, capra, leone, aquila. Era la chimera meravigliosa. Mentre queste cose ardenti e tristi, tra una cioccolata servita in fiorite tazze olandesi e un confetto dorato proveniente dalle vetrine di una famosa pasticceria, pensava il bel Dupré, la cui giubba di raso azzurro con passamanerie d'argento, stendendosi come un pennello della notte sulla persona poco più che ventenne, attraeva perfino gli occhi non lieti di Don Mariano e non poteva certo restare indifferente alle due giovanette, la minore delle sorelle, ancora una bimba, come si è detto, scoppiò a ridere senza apparente motivo e, interrogata affettuosamente dal padre sulla ragione della sua allegria, non rispose che portandosi sulla bocca a farla tacere una piccola mano. Non era muta davvero, lei. La causa, poco dopo del riso, si rivelò in uno di quei pensieri spregiudicati, irriverenti e infantili che attraversano a volte la testa delle ragazze e le fanno scoppiare a ridere così maleducatamente da procurare spesso qualche imbarazzo tra gli astanti. Non fu questo il caso, trattandosi di astanti molto cortesi e benevoli. Il signor Dupré, anzi, Monsieur Albert, ella disse, alla fine con ingenuità incantevole per la sua audacia rivolta al padre, era come Lucardillo. La faceva pensare in tutto al loro vecchio Cardillo. «Che vuol dire, Cardillo?» chiese con emozione quel sognatore. Allora intervenne il Mina, con grazia severa e posando la mano sul capo disarmato, intendiamo dire sventato, leggero, della fanciulla, disse il nome francese dell'uccello. E aggiunse, e chi avrebbe potuto non crederle, che il Cardillo di casa quel giorno era morto. Si erano dimenticate lei e Teresa di cambiargli l'acqua e rifornirlo di miglio, se n'erano dimenticate per 2 giorni, ed ecco, era morto. Lo avevano trovato al mattino, pancia all'aria, presso l'usciolo. Subito lo avevano offerto al gatto del giardiniere, che però, per solidarietà, dissero, non lo aveva voluto. Questo particolare fece orrore ad Albert. Egli per qualche minuto non parlò più, mentre gli amici, Nodier specialmente, sembravano non aver ascoltato nulla e ridevano di non sappiamo quale maldicenza su un generale prussiano riportata dal signor Neville. A Elmina non era sfuggito, sebbene sembrasse non importarle, il soprassalto del viaggiatore più giovane davanti alla tristezza e alla crudeltà dell'episodio. Ella, passandogli un dipinto piatto di porcellana colmo di nuove goloserie, da cui Teresa non si peritò di acciuffare a volo qualcosa, trovò modo di sussurrargli, riferendosi a ciò che Teresa aveva detto del Cardillo, che Messie Albert gli somigliava, e, come sicura che egli si fosse turbato solo per l'accostamento tra lui e l'uccello, «Pazzea sempre! A rien l'amuse!» Abbiate la bontà, Messie Dupré, di scusarla. Vi assicuro che non intendeva mancarvi di riguardo paragonandovi al Cardillo. È una buona bambina. Albert, per nulla pensando a sé, ma solo con vero strazio all'uccello, avrebbe voluto piangere. Nello stesso tempo si sentì stranamente consolato dalla voce di lei, di cui gli sfuggiva ciò che Neville, che aveva tutto ascoltato, riteneva divertimento e consenso a un atto di pura malvagità. La guardò dunque con gratitudine Albert, ma Elmina, a quello sguardo, sebbene cortesissima, non divenne meno fredda e neppure sorrise. Per l'indomani, così finì la serata, furono invitati tutti a pranzo da Don Mariano. Il pranzo era alle 17, secondo l'uso napoletano di allora. Per carità, non mancassero. Si raccomandò inoltre che fossero puntuali, anche perché, sorridendo, a questo mondo nulla lo è. Sulle sorbe le nespole amare. Sulle sorbe le nespole amare, ma lo tempo le fa maturare, e chi aspetta se l'ha da magna, se l'ha da magna, se l'ha da magna, e chi aspetta se l'ha da magna. Sulle sorbe le nespole amare, ma lo tempo le fa maturare, e chi aspetta se l'ha da magna, e chi aspetta se l'ha da magna, se l'ha da magna, se l'ha da magna, e chi aspetta se l'ha da magna, se l'ha da magna. Neville aveva concepito un sentimento di vera ostilità nei confronti della maggiore delle sorelle. In realtà non ve n'era nessuna ragione, nemmeno apparente, perché Adelmin, era il nome tedesco della giovanetta, si era comportata con i 3 ospiti né più né meno di come si sarebbe comportata qualsiasi ragazza ricca, anche se non particolarmente educata, e Adelmina non lo era, di Liegi o Parigi o Londra. Una vera figlia di facoltoso e forse rozzo mercante, un po' di musica, un francese approssimativo, ma non tanto. Modi non squisiti, ma neppure apertamente criticabili. Eppure Neville, Ingmar era il suo nome di battesimo, di cui chissà perché un po' si vergognava, sentiva il bisogno di criticarla. Attaccarla sarebbe stato un termine più vicino alla qualità non delicata del suo malanimo verso di lei. E la prima di queste ragioni, se così vogliamo chiamarla, poteva trovarsi, forse, in un sentimento di fastidio che la natura indifferente e chiaramente ordinaria di lei, così gli appariva, produceva sul sensibilissimo principe. Una donna insopportabilmente soddisfatta di sé e del suo regno casalingo. La seconda era forse alla base di tutto. L'aver avvertito l'entusiasmo e la tristezza di Albert durante tutta la sera come un effetto certo del di lei fascino e conseguente potere sull'animo di lui. Neville aveva in sé strane capacità rabdomantiche. Sentiva cose nascoste. Era stato perfino testimone di storie e fenomeni psichici, cosiddetti inspiegabili, consistenti soprattutto, ove la sua discrezione non lo avesse fermato, nel vedere o solo capire quanto accadeva in un cuore o anche dietro una parete. Ed egli aveva avvertito quella sera, con tutta la forza del suo geloso affetto per l'amico, che Albert, entrato sereno e spavaldo nella casa del guantaio, ne usciva adesso turbato e tremante internamente di una emozione che egli, Neville, considerava strana e pericolosa. Di ciò il commerciante Nodier non si era quasi accorto. Rientrando verso la mezzanotte al Cappello d'Oro, seguiti a breve distanza dai loro servi armati, la carrozza andava avanti senza carico, in quanto avevano preferito procedere a piedi. Rientrando a quell'ora solitaria, sotto un cielo di un dolcissimo azzurro, quale mai avevano visto in Europa, e tutto sparso di un ricamo filigranato di stelle d'oro, non solo Neville, ma anche i suoi amici erano stranamente assorti. E udendo se parlavano, le loro voci risuonare tranquille nell'aria, gli sembrava di avvertire dovunque, come un eco, la risatina lieta e superba della figlia maggiore del guantaio. Alla minore, alla bimba, ovviamente non pensavano. Tanto che, a un certo punto, accortisi dal proprio silenzio di avere nella mente la stessa persona, uscirono in un riso, sebbene forzato, cui non prese parte, se non freddamente, Albert. Cosicché Nodier, molto più semplice e affettuoso di tutti, a un tratto disse: «Perché così pensieroso, Albert? Non ti è piaciuta la bella signorina Elmina?» «Al contrario, moltissimo», rispose subito commosso da quell'attenzione l'artista. «Ma sei triste, o almeno non ti vedo bene alla luce di queste stelle», insisté l'amico. «Sì, in vero», si lasciò andare a dire, guardandolo con gratitudine, e i suoi occhi lucevano di una trepida emozione, il povero giovane. «E sono triste, ci crederai, per la storia del cardillo». «Non per quella solo, immagino», azzardò con un risolino enigmatico, facendo saltare la punta dell'elegante bastone da passeggio sull'acciottolato Neville. «Non tutte le signorine, certo, ne avrebbero riso così, ma non fu per crudeltà, bensì per indifferenza», fece eco Nodier. «Indifferenza? Cos'è indifferenza? Si può essere indifferenti davanti all'indebolirsi e morire di una creaturina dell'aria?» gridò quasi il Dupré. «E il resto della storia, poi?» pensava al lancio del corpicino freddo nel cortile, inutile offerta a un felino. «No, sento che queste ragazze non sono state educate in modo adeguato. A cosa? A quale stato adeguato per cui non vada bene, scusami, caro Albert, un po' di crudeltà, una qualche disposizione infine a prendere la vita per il suo vero verso?» Così disse, con un sorriso non buono, il principe. «Crudeltà? Vita come crudeltà? Oh, tu mi sembri folle, Ingmar! Per Dio, voi due mi sembrate folli stasera!» così gridò ancora l'artista e quasi piangeva. A questo punto era ben chiaro che l'emozione del Dupré, sotto l'effetto della bellezza di Elmina, aveva raggiunto un così alto grado di intensità che tutto, anche un episodio da nulla, se vogliamo, come la morte del cardillo, tutto, se riportato a lei, e quindi indice e prova quasi della di lei essenza morale, o il contrario, diveniva verità, atto testamentario, altissimo e memorabile documento d'anima. Povera giovane, a quell'età si parla a caso, più che altro, lo dovresti sapere, fu quanto si trovò a dire intimidito da quel dolore e attento anche a salvaguardare la fama di coloro che considerava suoi amici il mercante. È un'età ingenua, semplice, molto semplice. Ma non lei. Lei non dovrebbe con quel viso, quegli occhi pietosi. Sì, i suoi occhi color dell'oro esprimono, lo avete notato, una infinita, quasi maestosa pietà. Erano giunti all'albergo. I tre amici non dissero più altro e salirono in fretta nelle loro stanze. Qui solo l'artista, dopo essere rimasto per qualche tempo come in sogno, davanti a un tavolinetto di mogano dove si trovava il necessario per scrivere e aver scritto sembrava qualche cosa, si coricò, cioè si distese vestito sul letto e, a causa della spossatezza psichica, si addormentò immediatamente. Non così gli altri due. Tanto Nodier che Neville restarono svegli a lungo, affacciati ciascuno al balcone di ferro smaltato di bianco della propria camera. Balconi ampi e tranquilli, separati da una larga colonna che saliva dal cortile lungo la facciata dell'edificio e nascondeva i due amici l'uno all'altro, quindi, benché vicinissimi, senza poter più vedersi né parlarsi, immersi in una curiosa solitudine. Nodier, ci occupiamo un attimo dei suoi sentimenti, piuttosto contento, andava pensando alle persone che doveva incontrare l'indomani e anche alla splendida casa del guantaio che confrontava con altre di Liegi e Bruxelles e gli faceva tutto sommato l'effetto di una chiesa. Gli specchi, i ninnoli, gli orologi dorati, la gran profusione di marmi, le alte vetrate, le due ragazze, la quiete incantata di quella dimora alle 10 di sera, tutto gli pareva divino. Era triste soltanto pensando alla solitudine in cui viveva adesso don Mariano, senza la diletta moglie malata. E se la figlia maggiore si fosse sposata? Come avrebbe fatto lui a vivere? In quanto a Neville, si chiedeva semplicemente con quali mezzi poteva dissuadere Albert Dupré dal porgere l'indomani a Messie Civile la lettera con la quale lo implorava di volergli concedere la mano di Elmina. Una rapida domanda di matrimonio era stata vergata. La cosa era certa. Egli, Neville, senza fare per saperlo il minimo sforzo, quasi che tutte le porte del cuore e delle stanze di coloro che aveva cari fossero spalancate davanti agli occhi della sua mente, come se mai avesse lasciato l'artista alla porta bianca della sua stanza, aveva già visto quanto Albert aveva deciso e compiuto nel suo doloroso entusiasmo di sogno. Egli, il rabdomantico Neville, vedeva adesso davanti a sé, in luogo della scura marina napoletana, lo scrittoio aperto di Albert. Un foglio era sul tavolo, e la lettera, tracciata a grandi caratteri volanti e lasciata aperta con la profonda liberalità dei giovani o degli innamorati, cominciava così. All'eccellentissimo don Mariano Civile, casa del Pallonetto, in Napoli. Signore. In preda a un sentimento che non posso definire e tantomeno descrivere e mi tiene in vostro potere e della vostra innocentissima figlia, mai più forte di qualsiasi altro abbia provato nella mia vita, la stessa gloria e così via. Poco più in basso, la lettera constava di poche fulminanti righe, come in una nube di lacrime, appariva il nome di Elmina. Egli, si disse Neville, che dopo aver scorso quelle prime righe, le altre non occorrevano, Continuava a vedere un po' più distante lo stesso Albert disteso sul bianco letto, ancora tutto vestito del suo abito azzurro notte e quei bei capelli biondi alti sulla fronte appena sudata, la pace di un eroe morto. Egli, Bellero Fonte, non sa di essere giunto dove la vendetta lo attende dalla nascita, e io non lo previdi. Salvarlo. È forse ancora possibile salvarlo? Dall'esterno giunse, in quel punto, lo strepito, da una vicina taverna, di una rissa tra vigilanti armati e mariuoli, che però non lo distrasse. «Animo, Ingmar!» si disse ancora, dopo aver dato un ultimo sguardo a una luce che trapelava tra muro e colonna dal balcone accanto, segno che anche Nodier vegliava. «Animo!» «C'è un altro mezzo, forse, per salvarlo da questa sorte disperata. Dirai a Don Mariano domani per tempo che Albert non possiede nulla di suo, nulla che possa aggiungere alla fortuna della moglie. Confesserai senza esitazione, sebbene dovresti vergognartene, che lo hai sempre mantenuto tu e in segreto per entusiasmo poetico, e che il giovane Dio lo ignora. È un'infamia, ma assolutamente necessaria. E questa infamia, sfortunatamente o fortunatamente, al fine di riportare la pace nel cuore del principe, rispondeva proprio al vero. Dalla sua stessa nascita, in cui aveva perso la madre, e subito dopo in un duello il padre, un piccolo barone squattrinato, Albert era stato il protetto, beato e inconsapevole della sua miseria, della famiglia del principe e in seguito dell'erede, signor di Neville. Così, meno affannato, si addormentò anche il nobile di Liegi, e verso l'alba, e poi la splendida aurora, che in quelle regioni quasi due secoli fa era molto pura e silenziosa, non uno degli ospiti stranieri era sveglio. Dormivano serenamente nelle loro grandi camere stuccate di bianco, con amorini e tende a righe rosa ai balconi, mentre da basso il locandiere già provvedeva ai grandi bricchi di caffè, alle montagne di brioche rosate imbevute di miele, e i servi del piano, apparsi da ogni parte come gnomi, si davano da fare a strofinare dietro le porte con immense spazzole rosse, molti indolenti ed eleganti stivali, in attesa di essere di nuovo calzati e ammirati. A così sole femmine toste, che s'arraggiano quando da questa, tiempe pur che le fanno mulla, tiempe pur che le fanno mulla, tiempe, tiempe, pur che. Tiempe purché le fanno mulla. Sole sorbele ne spole amare. Sole sorbele ne spole amare, ma lo tempo le fa maturare. E chi aspetta se l'ha da magna, se l'ha da magna, se l'ha da magna. E chi aspetta se l'ha da magna. Sole sorbele ne spole amare, ma lo tempo le fa maturare, e chi aspetta se l'ha da magna, e chi aspetta se l'ha da magna, se l'ha da magna, se l'ha da magna, e chi aspetta se l'ha da magna, se l'ha da magna.